punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, buona giornata a voi, un saluto da parte mia, da Gigi Donelli, da Filippo Aureggi in regia. Insomma, la settimana che si va concludendo è stata letteralmente segnata, tra l'altro, dalle scosse, dai terremoti che per ben due volte hanno investito il centro, il nord Italia. Avete sentito i dettagli nel nostro giornale radio proprio qualche momento fa. Settimana che ha visto, tra l'altro, anche la conferma, la decisione sul rimborso dei naufraghi della Costa Crociera, un rimborso, un accordo di fatto che è stato trovato per dare 11.000 euro a passeggero. Naturalmente questo non riguarda chi ha subito appunto alle familiari delle vittime, chi ha vissuto nella forma peggiore questa tragedia del mare. Ma questa è anche la settimana che porta un altro tassello del percorso del governo Monti. L'aspettavamo, il DL semplificazioni ci viene raccontato dal nostro Vincenzo Miglietta. Una lunga riunione sul tavolo, un provvedimento che nelle intenzioni dell'esecutivo è destinato a ridurre gli oneri per cittadini ed imprese. Nel dettaglio degli interventi si va da un ulteriore taglio alle leggi cosiddette inutili, sarebbero oltre 300, al ritorno della social card, questa avrà una dotazione di 50 milioni. È in arrivo un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi. Il bonus assunzioni al sud viene prorogato al 2013, salta l'obbligo di chiusura domenicale per i panificatori ed ancora novità per la carta d'identità e il cambio di residenza, per la circolazione dei TIR, per il controllo dei gas di scarico. Cancellati i mini debiti con il fisco, arriva poi la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, i versamenti all'INPS da maggio non potranno essere più in contanti, i beni confiscati alle mafie, laddove adatti, saranno infine destinati ad imprese giovanili per attività turistiche. E da Roma è tutto. Insomma, il governo Monti sembra tenere la sua rotta e anche i tempi, perché non dimentichiamolo, lunedì è il giorno del vertice europeo, quindi capi di Stato a Bruxelles, un'altra parte della stessa storia che è poi la crescita, una parte naturalmente squisitamente europea. Chissà se Angela Merkel, il cancelliere, farà passi verso quello che ormai in molti in Europa chiedono. Tutto questo, vi anticipo, sarà raccontato lunedì con i nostri inviati nel nostro racconto di una giornata davvero importante per l'Italia, per l'Europa nel suo insieme. Punto e a capo. L'autorità di garanzia sugli scioperi ha sentito il dovere di enunciare una situazione intollerabile per una moderna società civile, quale è appunto l'Italia, dal momento che la protesta degli autotrasportatori ha comportato in molte parti del territorio nazionale una vera e propria lesione alla libertà di circolazione di cui sono titolari i singoli cittadini. Quindi ieri l'autorità ha aperto un procedimento di valutazione, ad esempio nei confronti dell'associazione dei trasportatori siciliani, i quali nella fattispecie non hanno rispettato il codice di autoregolamentazione nel settore del trasporto merci, che prevede che la proclamazione della protesta non deve prevedere assolutamente l'effettuazione di blocchi stradali o di altre iniziative che sono poi sanzionate dal codice della strada. Come invece c'è. E questo accadeva già martedì 24 gennaio, questo era Roberto Alesse, appunto del garante per degli scioperi, ospite di Alessandro Milan. E dopo 5 giorni di blocco, gli autotrasportatori in realtà già da giovedì hanno iniziato ad allentare la presa sulle strade italiane, cominciando dal nord, poi via via scendendo fino alla fine, peraltro appunto prevista, delle agitazioni. Ma avverte Maurizio Longo, segretario generale di Trasporto Unito,

le indicazioni sono quelle di totalizzare almeno 250 minuti, stiamo parlando quindi di più di 4 ore a settimana di lavoro continuo per cercare di ottenere un buon risultato anche dal punto di vista del dimagrimento. Punto e a capo. Quattro ore di lavoro continuo a settimana, insomma non è uno scherzo questo consiglio che ci è stato dato nel fine settimana, naturalmente per fare sport ma anche per andare a teatro, per andare al cinema, per leggere, insomma per fare quelle cose che non riusciamo a fare durante la settimana, per il consueto appuntamento su questi altri aspetti della nostra vita importantissimi, come sempre Marta Cagnola. Buongiorno Gigi, questa settimana, anzi questo fine settimana vi manderei al cinema. Esce un film molto atteso che si intitola ACAB, All Cops Are Bastards, e chi parla l'inglese ha già capito che si parla di polizia, si parla di una polizia violenta, ma non è un film contro la polizia. Io pensavo ad ACAB della... esatto, molti pensavano al capitano, no, non ci sono balene, okay. Ma ci sono poliziotti, ci sono dei celerini particolarmente violenti, ma lo dicevo, non è un film contro la polizia, è un film molto duro, molto complesso, che è uscito questo fine settimana. È anche molto atteso perché il regista ha la sua prima opera come lungometraggio cinematografico, è Stefano Solli, ma già particolarmente famoso per aver diretto Romanzo criminale. Il cast è un cast importante: Favino, Nigro, Giallini, Sartoretti anche lui in Romanzo criminale, Domenico Diele, insomma un bellissimo cast. Il cast lo sentiremo domani mattina in 140 caratteri alle 8:30. Mi faccio un po' di pubblicità, perdonami Gigi. Invece ora ti farei sentire cosa ci ha raccontato proprio Stefano Sollima, il regista, perché gli abbiamo chiesto se è un po' preoccupato per questa attesa molto forte che si è creata su ACAB. Se mi avesse creato troppa pressione forse non avrei esordito con un film come ACAB, che diciamo non è un esordio facile, nel senso rappresenta ha dei rischi, come non è un esordio sul velluto, però trovo che fosse corretto, come dire, continuare un ragionamento sul cinema di genere, e quindi in questo caso, seppur ovviamente con una connotazione, se vuoi, politica, di denuncia sociale molto forte, però fare sempre un poliziesco. Io ho aspettato tanti anni per fare un mio primo film e me l'hanno offerto diverse volte, ovviamente, un progetto cinematografico, e non ho mai trovato uno che mi convincesse come ACAB. Ho fatto bene aspettare. Però hai detto solo in Italia, poi ci si chiede se qualcuno ha interferito, se qualcuno ha criticato. Ma solo perché non siamo abituati. Noi abbiamo un po' perso l'abitudine a provocarci e soprattutto anche a raccontarci attraverso la macchina cinematografica, e la prendiamo delle volte anche un po' troppo sul serio, ma non lo facciamo sul serio. Cioè io trovo che il cinema in Italia non si faccia moltissimo sul serio, ma si prenda sul serio, nel senso che, vedi, noi facciamo un film, se gli avessi detto adesso faccio un poliziesco, un bel poliziesco duro e teso, dopo Romanzo criminale avrebbero detto: ah, bello, qual è il cast? E invece noi abbiamo fatto: facciamo un bel poliziesco sul reparto mobile, sulla celere, come vi permettete? Perché voi, perché volete parlare del reparto celere, allora volete parlare contro? Cioè, come si tende subito a prendere posizione, se vedi anche su internet, già hanno preso tutti posizioni, nessuno l'ha visto, e tu, già c'è lo schieramento pro e contro. E celerini ovviamente dicono un film contro, no, un film a favore, gli ultra un film contro, un film a favore, cioè subito si sono schierati, che secondo me è solo un fatto di poca attitudine, poca abitudine, cioè non siamo più abituati a guardarci dentro. Punto e a capo. Bene, naturalmente non sarebbe fine settimana senza parlare di calcio. Prima abbiamo parlato degli sport amatoriali, adesso con Carlo Genta parliamo dei professionisti Serie A prima di ritorno. Prima di ritorno, Gigi, che comincia oggi alle 18, c'è Catania-Parma, ma l'attesa è tutta per questa sera, dove c'è la prima contro la terza in classifica. Entrambe vestono di bianco nero, 20:45 a Torino, Juventus Udinese. E gli altri che aspettano? Naturalmente gli altri che aspettano lì alla finestra. Il Milan dovrà aspettare un po', perché è la squadra che chiuderà questa prima di ritorno giocando nel posticipo domenica sera contro il Cagliari a San Siro. un weekend certamente interessante all'insegna appunto di questa partita. L'Udinese che arriva a Torino con soli 3 punti di distacco dalla Juventus. Juventus che ieri ha presentato un nuovo acquisto, Martin Caceres, e per fortuna il 31 finisce il mercato, perché sinceramente è stata una settimana molto difficile tra una Coppa Italia che ha lasciato tanti squalificati, che ha lasciato molto nervosismo in campo e fuori, eccetera, e un mercato che è sempre lì sullo sfondo ad aleggiare, Gigi. Cioè il 31 gennaio si chiude, che è martedì se non sbaglio. Sì, insomma. Alle 19. Fine. I giochi sono fatti, sì, ma c'è ancora spazio per qualche sorpresa? Lo vedremo, sai. È una sorpresa, per cui se è una sorpresa non possiamo saperlo. E intanto il Milan ha risolto la storia Tevez-Maxi Lopez, ma poi tu sai bene che il mercato, nel mercato fino agli ultimi secondi, certo, si può fare qualcosa. Ti ricorderai quel lancio del contratto di Milito dentro al box qualche anno fa. Me lo ricordo effettivamente. A proposito di Milito, parla un po' delle Milan, anzi hai parlato del Milan in realtà, ma all'Inter L'Inter deve proseguire la sua rincorsa, gioca domenica pomeriggio a Lecce, 7 vittorie di fila non sono poca cosa, è chiaro che in settimana è arrivata la sconfitta in Coppa Italia, ma è un'altra competizione. Inter che sta recuperando anche tutti i suoi lungodegenti, più o meno compreso Sneijder, e dunque è una squadra da tenere d'occhio in questo weekend, perché sfruttando il confronto diretto Juventus-Udinese potrebbe recuperare ancora punti e posizioni. Grazie a Carlo Genta, staremo a vedere naturalmente, staremo a sentire negli spazi di Radio 24 condotti da Carlo Genta per raccontare questo fine settimana. Noi siamo arrivati alla conclusione, un ringraziamento ancora a Pietro Lacorte, a Filippo Aureggi in regia. Da parte mia naturalmente, come sempre, vi lascio a GR24 e poi l'appuntamento del sabato con l'Europa. Punto a capo torna sabato prossimo intorno alle 9:10. Buon fine settimana a tutti.